Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, 13:33, ogni giorno a quest'ora su Radio 24 andiamo a cercare le storie, i fatti, i personaggi di un'Italia diversa rispetto a quella già raccontata, magari originale, ma nella quale ritrovare ognuno qualcosa di noi. Italia in controluce, oggi partiamo da Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Lì ci sono, forse è meglio dire c'erano, due aziende che davano lavoro a quasi 300 persone. Come per gli stabilimenti Alcoa, di cui si parla molto proprio in queste ore, anche qua la produzione in crisi è quella dei metalli. Uno dei casi di quella che potremmo definire l'Italia dell'industria che perde i pezzi, ma anche più semplicemente storie di persone che restano senza lavoro. Cristina Carpinelli. La crisi economica sta causando la perdita di numerosi posti di lavoro e questa situazione richiede grande senso di responsabilità da parte di tutti, imprenditori, lavoratori, governanti. Era domenica mattina, il Papa parlava alla piazza, un intervento storico, drammatico, dirompente. I lavoratori hanno ascoltato e per un attimo sentito di non essere soli a portare il fardello della crisi. Io addirittura speravo che lo facesse anche prima il Papa, un intervento del genere. Comunque è quello che ci vuole. La soluzione di questi problemi non può essere lasciata ai singoli, tantomeno alle parrocchie, tantomeno agli operai che pagano il conto, no? Don Gabriele Sala, che avete appena sentito, è il parroco di Paderno Dugnano, la cittadina nell'Interland milanese, sede della Lares e della Metalli Preziosi, due aziende chiuse quando ancora si produceva, 260 operai per strada, senza i soldi della cassa integrazione e senza i soldi per mangiare. Da mesi in presidio permanente davanti ai cancelli. Sono sopravvissuti, letteralmente, grazie alla parrocchia e alla Caritas, che hanno dato cibo e soldi. Essendo da più di un anno senza stipendio, fino a quando hanno cominciato a prendere la cassa integrazione, che è avvenuto il mese di novembre dello scorso anno. È chiaro che queste famiglie andavano aiutate, se no che facevano? E niente, noi ci siamo attivati per questo. Prima di Natale ero quasi più lì ai picchetti fatti dagli operai fuori dalle fabbriche che non in parrocchia. Lares e Metalli Preziosi, una storia che fa capo a un uomo, il signor Astolfi, amministratore delegato della Lares e presidente della Metalli Preziosi. Quando la quota di minoranza della Metalli Preziosi, formata da imprenditori russi, si fece avanti per tentare un piano di rilancio industriale, venne portata avanti la trattativa con una fantomatica azienda slovena che nulla aveva di concreto tra le mani, oltre a un fragile assetto economico. Perché? Abbiamo provato a cercare risposte, ma il signor Astolfi non l'abbiamo mai trovato. Però davanti alle sue fabbriche ci sono i lavoratori e c'è Graziella. C'era da spararsi con la cassa integrazione che è arrivata dopo mesi, la gente che doveva mangiare, gente con tre figli, marito e moglie che lavorano lì, veramente un disastro. Chi veramente sta provando queste cose, c'è da impazzire. Perché la Caritas sfortunatamente ci dà una mano, Tettamanzi anche lui con i suoi fondi, però purtroppo non sono sufficienti per coprire quello che uno ha e poi anche per noi dignità e anche avere un posto di lavoro. Mappare questa storia è stato difficile. Quante sono e quali le storie di questi lavoratori che si arrampicano sui tetti, si incatenano ai cancelli, dormono in tende davanti alla loro fabbrica? Che storia è questa che stiamo vivendo? La disavventura che io e mia moglie ci siamo trovati a lavorare insieme, non perché è un male, potrebbe essere anche un bene, però è un reddito, due redditi in meno con tre figli a carico. Diventa insostenibile con 750 euro al mese affrontare la vita. E queste sono le domande che tutti mi dicono: come si fa? Si fa in modo tagliando tutto. Sono una lavoratrice della Lares e sono 35 anni che lavoro alla Lares SPA. Solo che due anni fa c'è stata un'amministrazione controllata, è andata avanti per due anni e poi ci ha lasciato in mezzo a una strada. Anche se abbiamo dovuto cedere al 4% dello stipendio più la quattordicesima. Ancora Don Gabriele. tragico di questo dramma è che non si vede nessuna prospettiva, perché io dico non si vede nessuno che si muove. Non è pensabile che la cassa integrazione possa essere una soluzione, è una soluzione temporanea. Questa è una maxi rapina camuffata con conseguenze deleterie per le famiglie. Italia in controluce. E adesso lasciamo Paderno Dugnano, le sue fabbriche, le sue storie, e andiamo più a sud, in Abruzzo. Torniamo all'Aquila, 10 mesi dopo il terremoto. In un giorno qualunque, senza inaugurazioni di nuove case, senza conferenze stampa, senza i clamori della grande cronaca. Per vedere come si sta oggi nella città che fu distrutta, ci andiamo con Daniele Morini. Le abbiamo avute così tanto sotto gli occhi, le immagini delle distruzioni dell'Aquila, chi dal vivo e chi in TV, che sarà impossibile dimenticarle. Da quel 6 aprile 2009 ad oggi le macerie sono state rimosse da gran parte delle strade, specie quelle principali, ma in alcuni casi restano ancora adesso a raccontare le tragedie piccole e grandi che la terra ha causato, con quello sciame sismico durato settimane e culminato nella scossa di quasi 6 gradi di magnitudo. 308 morti e oltre 1500 feriti, di cui almeno 200 gravi. Il bilancio finale del terremoto aquilano è questo, e a distanza di mesi quei momenti sono ancora vivi nella memoria della gente. Io ho avuto i miei cognati che sono morti con questo terremoto, mi hanno lasciato due nipoti in più. Quindi adesso mi ritrovo una famiglia allargata di 4 persone, premesso che io ho altri 2 figli, quindi oltre ai figli oppure ai suoceri, finalmente ci hanno assegnato la casa qua a Bazzano, che è una casa, insomma, che vale. Quante storie, quanti drammi e vicende personali si sono incrociate dalle fasi della prima emergenza ad oggi. Governo italiano e Protezione Civile in particolare hanno voluto gestire l'immediato e poi la sistemazione dei circa 67.000 sfollati in maniera inedita, lanciando un vero e proprio modello abruzzese, cioè edificare subito nuove abitazioni per i terremotati e occuparsi poi della ricostruzione della città, dei borghi periferici, dei piccoli paesi. Si è passati da una fase di stabilità, quindi di incertezza, a iniziare a rivedere un pochettino il futuro con maggiori speranze. Io vengo da un'esperienza di 5 mesi in albergo, quindi cioè, i primi giorni sono stato molto bene, insomma ho ritrovato l'unità familiare, insomma ho ritrovato un po' di privacy che si era un po' persa nei 5 mesi passati in albergo. Ecco allora i nuovi quartieri aquilani che nascono in periferia, insediamenti moderni e funzionali che ospitano già oltre 13.000 persone, nuovi borghi che hanno spaccato in due il territorio del capoluogo, creando poli anche distanti fra loro, con in mezzo la ferita ancora sanguinante del centro storico. E se prima di Natale tutti hanno avuto in dono la chiusura delle tendopoli, restano oltre 16.000 persone in alberghi e caserme anche a distanza di decine di chilometri. Sono entrata e ho trovato un ambiente bellissimo, una casa funzionale, un panorama incredibile, cioè sono felice di essere qui. Però il problema grande è che noi siamo due nuclei familiari aggregati, io e mia figlia di 19 anni e un carissimo amico di famiglia decennale, anche ventennale. Noi siamo entrati sicuri di trovare quello che abbiamo trovato e una camera da letto in più, perché abbiamo una sola camera da letto. C'è un divano letto che sta nel locale dove noi mangiamo, dove io cucino, dove io svolgo tutte le attività, diciamo, ricreative che svolge una famiglia. Siamo in un luogo dove ci sono troppe persone, però a parte quello, carino. Oltre agli interrogativi sui piani case, a quanto pare non basteranno per tutti, restano aperte le domande sul futuro delle attività produttive, in gran parte al collasso, a parte quelle che con la ricostruzione stanno facendo affari d'oro, e poi i tesori dell'arte, dell'architettura e della cultura aquilana. Proprio nei giorni scorsi è stato fatto il primo passo con la presentazione dei restauri della Fontana delle 99 Cannelle, adottata dal Fondo Ambiente Italiano. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. A parte veramente il primo passo, cioè la prima opera vera di restauro e non più opere provvisionali, ma è simbolica, perché la fontana di Antonio Cannella è il simbolo della città. Il vicepresidente del FAI, Marco Magnifico. Un luogo simbolo dove magari tanti aquilani sicuramente si sono dati il primo bacio, non so come dire, sono luoghi che devono continuare a vivere, che devono continuare a esistere, perché il cittadino si senta ancora a casa sua nonostante viva in un prefabbricato. Il sovrintendente per i beni ambientali e architettonici d'Abruzzo, Luca Maggi. Negli ultimi anni, diciamo soprattutto nel periodo estivo ovviamente, la città dell'Aquila qui ha vissuto anche eventi di carattere culturale, quindi è anche attualmente, che ormai i panni non si lavano più alla fonte, è comunque un luogo importante di ritrovo della comunità cittadina aquilana. Ecco, questo certamente ha mantenuto nei secoli una funzione di aggregazione. È tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi, regia Pietro Lacorte. Potete scriverci le vostre storie a controluce@radio24.it oppure cercateci su Facebook Radio 24 Italia in Controluce. Ci risentiamo alla prossima edizione domattina alle 6:30. Buona giornata da Alessio Maurizi.